E allora andiamo subito a iniziare la nostra, vabbè, agenda di oggi. Non iniziamo propriamente l'agenda, facciamo questo piccolo spazio prima di riflessione, come abbiamo annunciato. Parliamo di violenza maschile, di minacce poliziesche e giudici ideologici. E la solidarietà dove è andata a finire? Prendiamo questa storia da una compagna, da un comunicato che appunto ci è arrivato, e andiamo a leggere insomma la vicenda, una delle tante, e poi insieme alla compagna che è al telefono commentiamo questa vicenda. Si tratta appunto di una compagna di Reggio, ha intrattenuto una relazione con un ragazzo, Amdi Abderrahim, un ragazzo di origine maghrebina che d'ora in poi chiameremo lo stronzo, inizialmente felice ma poi trasformatasi in un incubo. L'incubo è iniziato quando lo stronzo, vedendosi rifiutata una richiesta di denaro, ha reagito dandole una testata, alla quale è seguita una querela per percosse. Successivamente la compagna ha saputo dai suoi vicini di casa che lo stronzo aveva umiliato il figlio di lei davanti a tutti mentre giocava con altri bambini, con offese del genere: sei un handicappato, sei un bambino di merda, sei figlio di un bastardo, al che la compagna lo ha querelato per maltrattamenti su minore. Dopo un breve periodo lo stronzo si è ripresentato a casa di lei chiedendo altri soldi e al rifiuto ha risposto spaccandole il naso. Ma l'episodio culmine è avvenuto quando lo stronzo ha tentato di ucciderla buttandola fuori strada con la macchina. Per fortuna lei è ancora viva, ma con una vertebra incrinata che avrebbe potuto portarla alla perdita dell'uso delle gambe. La denuncia è partita d'ufficio perché la prognosi superava i 21 giorni. Le indagini sull'incidente, diciamo tra virgolette, sono ancora in corso e lo stronzo ha avuto la faccia tosta di controdenunciarla, dichiarando che lui avrebbe tentato di salvarla mentre lei si buttava fuori strada. Nonostante le querele, le denunce e i tentativi della compagna di allontanarlo in tutti i modi, lo stronzo è tornato sotto casa di lei e sotto i suoi occhi ha strappato via i tergicristalli dalla macchina nuova appena comprata, visto che l'altra appunto era stata rottamata. Al che la donna è andata dagli sbirri a sporgere denuncia su consiglio del carrozziere per riuscire a farsi pagare i danni dell'assicurazione. Arrivata nella caserma di Guastalla, il maresciallo Cassetta ha messo in dubbio la versione di lei riguardo all'incidente in macchina, affermando: lui è quasi forse più credibile di te, a vedere così non sembra un cattivo ragazzo. Si è quindi rifiutato di formalizzare la denuncia per stalking e quella per il danneggiamento della macchina nuova, dicendo che di denunce ce n'erano già abbastanza per sistemarlo. A questo punto lei è andata via, il maresciallo Cassetta l'ha accompagnata fuori dalla caserma e le ha fatto capire che sapeva della sua militanza politica e le ha detto: se tu torni con quelli posso anche fare una segnalazione al Tribunale dei Minori e mandarti gli assistenti sociali. Allora, scusate la voce, ovviamente siamo un po' emozionate tutte e due. Allora abbiamo al telefono Elena, appunto la compagna anarchica di Reggio. Ciao, ci senti? Ciao, buonasera a tutti. Allora, ciao. Ben trovata e intanto veramente, cioè, grazie anche a nome di tutte per questo coraggio, insomma, di mettere nero su bianco una vicenda così e raccontarla intanto, e sappiamo che appunto non è molto facile. Poi insieme, non proseguiamo nella lettura di questo comunicato, insieme magari lo commentiamo un po', insomma, questa tua vicenda. Intanto immagino che ti abbia suscitato notevoli, insomma, tante riflessioni. La prima, che appunto forse possiamo così su due piedi commentare, è che incredibilmente le forze dell'ordine, di solito così solerti, soprattutto con appunto migranti, parliamo di un uomo di origine maghrebina in questo caso, addirittura hanno visto peggio la donna che si ribella, no? Facendo riferimento alla tua militanza politica e superando quindi il loro razzismo notorio, insomma. Questa mi sembra la prima cosa. Certo. Sono noti gli episodi in cui anche ragazzi di origine straniera sono stati uccisi, cioè per strada, quindi certo, certo. Cioè, da parte delle cosiddette forze dell'ordine, quindi c'è niente di nuovo, insomma. Certo, no, la cosa sì, un po' che fa pensare questo dare più valore alle dichiarazioni di comunque una persona che sicuramente loro considerano, cioè, uno straniero, un arabo, un islamico, come li chiamano, cioè in modo dispregiativo, rispetto a una donna che ha subito violenze fisiche e psicologiche, sono a conoscenza della militanza politica, della lotta contro i CIE, a favore degli immigrati, dei diritti degli immigrati, e quindi c'è questa cosa mi ha destato un po' di scalpore. Sono rimasta un po' stupita, ecco, non me l'aspettavo, cioè. Sì, evidentemente, appunto, la donna, diciamo, ribelle, cioè in qualche modo viene considerata, ecco, appunto, una che, insomma, non so, insomma, hai ricevuto chiare segnali, insomma, da questo maresciallo Cassetta, no, sul fatto che la tua militanza ti mette anche maggiormente in discussione la parola. Già sappiamo che normalmente per le donne, insomma, è difficile essere creduto, prese seriamente, e poi figuriamoci, ecco, in questo caso. E poi sì, infatti, poi tu fai anche, giustamente, insomma, dal nostro punto di vista, una riflessione sulle alternative che ha una donna che si trova in una situazione come questa, e lo diciamo, sono tante anche le compagne, insomma, che vivono situazioni, sì, così. Ci sono sicuramente altre storie di compagne che hanno vissuto violenze fisiche e psicologiche, ma che sono rimaste nell'ombra e che non conosciamo. Quindi io vorrei fare anche un invito a queste compagne a raccontare la loro storia. Cioè, quello che io, quando sono successi questi episodi, quello che ho pensato è stato: ma io sono da sola, devo tutelare anche mio figlio, ho subito delle violenze, a chi mi rivolgo? Ecco. Sono da sola, a chi mi rivolgo? Poi, a chi posso? Sì. Cioè, questo qualcuno sicuramente potrà dire, l'ha detto, ma perché rivolgersi ai carabinieri? Perché rivolgersi alle autorità, alle forze dell'ordine? Questo, cioè, io non do giudizi sui compagni e su compagne, anche perché da anarchica non mi spetta giudicare. Io invito solo a discuterne fra compagni e compagne, e soprattutto le compagne che hanno subito magari storie simili, di raccontare, di sviscerare quello che è successo, e a tutto il mondo del nostro movimento a farsi un interrogativo e a cercare, cioè, una via, una soluzione per cui una donna, cioè una donna sola con un bambino, possa, se, una volta trovatasi nella mia situazione, che poi la situazione che pensa di tante altre donne, possa non rivolgersi obbligatoriamente le forze dell'ordine, che sappiamo non risolvono niente, né, non risolveranno niente né per me, né per mio figlio, né per nessuno, né per le altre donne, ma possono rivolgersi a una rete di compagni, di compagne, avere il supporto di una rete solidale, di autodifesa. Sì. Questo sì che può fare qualcosa, questo sì che può aiutare. No, infatti mi sembra molto interessante, diciamo, poi al di là di, cioè, questa tua vicenda, che comunque lo ricordiamo, insomma, si tratta di tentato omicidio, cioè non sono diciamo, appunto, sono tanti livelli di violenza, ma nel tuo caso è effettivamente spalle al muro, e difficoltà oggettiva. Per cui sì, ci sembra interessante, appunto, insieme a te, portare all'esterno questo interrogativo, che per ora rimane un interrogativo, speriamo così di lavorare anche a, proprio alla creazione di una rete di questo tipo, perché allo stato attuale non esiste, non c'è, ed effettivamente è molto difficile giudicare una donna che effettivamente per uscire dalla violenza fa quello che è il percorso unico apparentemente, almeno al momento, che ha davanti, cioè è certo, per cui è un problema, chiaramente è un problema innanzitutto rivolgersi ai tutori di un ordine patriarcale maschilista, per cui è una contraddizione enorme. Già, purtroppo da anarchici, come sono io, da anarchici, noi, cioè, come ideologicamente le autorità, i giudici, le forze dell'ordine, i tribunali, non già diciamo, cioè, non c'è un riconoscimento, le galere, certo. Cioè, anche se questo ragazzo per queste denunce dovesse finire in galera, cioè, io sono contro le galere, cioè, sì, dopodiché capisco che le critiche che qualcuno non mi sento di giudicare, che posso capire che qualcuno dica ma come, lei è anarchica, ha un'ideologia politica e si rivolge proprio agli antagonisti di questo movimento, agli antagonisti di queste idee. Però tu vieni a dire che non c'è stata alternativa, quindi anche già perché io ho dovuto tutelare un minore di 8 anni che già aveva seri problemi, ha già seri problemi, perché questo ragazzo non è il padre l'ha lasciato quando aveva 4 anni, quindi ha già seri problemi psicologici, in più questo lo maltrattava, certo. Ho dovuto, cioè, purtroppo mi sono trovata da sola a dover tutelare me ma anche mio figlio, che purtroppo aveva già problemi precedenti e adesso devo dire che sono peggiorati, quindi certo. E poi appunto ci sembra importante quando c'è la possibilità, come nel tuo caso, di trasformare una questione personale invece in una questione che riguarda tutte e poi anche tutti, cioè in una questione politica. Forse la prima cosa che ci dobbiamo dire è che, come dici tu giustamente, sospendiamo il giudizio sulle scelte che fanno le donne quando cercano di uscire dalla violenza, perché attualmente le alternative non ci sono. Lavoriamo sul versante, perché sappiamo anche i processi per stupro sono terribili per le donne, cioè quando poi una entra nel meccanismo dello Stato, però capiamo anche la necessità di uscire, la necessità di allontanare l'uomo che ti vuole ammazzare o l'uomo violento, certo, che ti rovina la vita, quindi c'è pure sta necessità di isolarlo, di non vederlo mai più. Come si fa? Lì si deve ricorrere a avvocati, giudici, tribunali, forze dell'ordine. Certo. Purtroppo, perché non c'è, al momento non c'è altra via d'uscita, cioè non so come chiamarla, non c'è altra alternativa, non c'è altra forma di altra rete, altra forma di solidarietà che ti possa tutelare, salvaguardare. Certo. Tu comunque, in questo momento, appunto, anche avendo posto questa questione come interrogativo che riguarda altre, sei attualmente insieme ad un gruppo di compagne per l'autodifesa e la solidarietà tra donne, che credo nasca intorno a questa tua vicenda, ma appunto pone interrogativi che riguardano tutte noi, e non so se vuoi... Invito tutte, magari le compagne che sono in ascolto, hanno storie di violenza, hanno subito storie di violenza maschile, o insomma sviscerare, raccontare, a rendere pubblico, a non tacere. Certo, no, che non è facile. Poi anche sfatiamo alcuni tabù, sappiamo, insomma, anche noi nelle nostre storie di militanza o semplicemente così storie di vita, siamo entrate tante volte a contatto con appunto situazioni di violenza anche all'interno dei movimenti, anche all'interno dei luoghi cosiddetti liberati, cui è urgente e necessaria una riflessione, insomma, un po', immagino, a 360 gradi, che investa anche i compagni, perché poi l'atteggiamento da tenere di fronte a una donna che subisce violenza è insomma una cosa che si deve imparare e ragionare, perché appunto i giudizi non vanno bene, non va bene non fare niente, non va bene, insomma bisogna sì, però mettersi seduti intorno a un tavolo, fare qualche riflessione. Sì, come dici te, queste cose purtroppo sono avvenute anche nell'ambito dentro il movimento, queste forme di sessismo, possiamo chiamarlo, quindi sarebbe ora di mettersi un po' a discutere e sì. Insomma anche ecco a allora. Costruire qualcosa di buono sì, anche per tante altre, insomma, che magari si trovano in questa stessa situazione e magari giustamente non hanno voglia di rivolgersi all'autorità, ma non hanno alternative. E quindi sì, ci sembra... Io non ne avevo voglia, però. Immaginiamo. Lo no, so, hai scritto un comunicato su questo, hai fatto bene. No, guarda, assolutamente proprio. Certo. Io quando sono entrata in caserma, cioè. No, sono altri luoghi di violenza, quindi sì, no, è chiaro, interroghiamoci su che punto questi percorsi sono terribili per le donne, anche insomma, ecco, entrare in una caserma, denunciare, insomma, abbiamo detto, sono i tutori di questo ordine che è anche maschilista e patriarcale, e si è visto anche dal trattamento che hai avuto, insomma, ora al di là della militanza politica che ha pesato particolarmente, ma insomma in generale comunque hanno comunque difeso tra virgolette l'uomo, certo, le dichiarazioni dell'uomo, quindi un atteggiamento prettamente maschilista, sessista, cioè certo, che sappiamo fa parte del loro background. Sì. Quello che dobbiamo togliere sarebbe anche una riflessione anche all'interno del movimento, e certe forme di sessismo toglierle anche dalle... Pronto? Mi senti? Sì, ecco, adesso sì. Sì, dicevo... toglierle anche intorno a noi, insomma, dici. Sì, può essere anche dentro al nostro movimento, certo, questa forma, e quindi sarebbe importante magari partire da lì. Sì, certo. Va bene, Elena, noi ti ringraziamo moltissimo veramente anche di essere intervenuta a voce qui nei nostri studi. Appunto, anche noi ci uniamo insieme a te a lanciare questo interrogativo: quali alternative ha una donna che vuole uscire dalla violenza? Creiamole, insomma, insieme, ragioniamo, e è molto buono che alcune compagne si siano unite a te nel cercare appunto di trovare delle forme di solidarietà e di autodifesa. Speriamo che anche qui a Roma questo interrogativo prenda piede, magari in tante altre città, e poi ci si possa incontrare e costruire effettivamente qualcosa anche di concreto, insomma, e effettivamente alternativo. Sì, che abbia anche dia la possibilità a donne comunque vittime di questi episodi di rivolgersi a reti solidali piuttosto che rivolgersi allo Stato, diciamo. Benissimo. Elena, noi ti ringraziamo e allora poi ci aggiorniamo, insomma, continuiamo a seguirci in questi percorsi. Intanto un abbraccio da tutte noi. Grazie mille per la possibilità che mi avete dato. Io vi ringrazio tutti e vi auguro una buona serata. Altrettanto. E poi sì, ci aggiorniamo, dai, ci sentiamo, sì, senz'altro. Certo. Speriamo, insomma, la prossima volta di fare un intervento sulla rete che è nata sulla dai, infatti, ecco, infatti. E in tutta Italia. Parlare, ecco, sì.